realtà. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Tutti i giornali che sono veramente una cosa incredibile, cioè tutte le televisioni, tutti i giornali sono schierati dalla parte del diavolo, diciamo pure così, dalla parte del diavolo, è un bel padrone della stampa, eh. Ma io sono cattolico convinto fino nel mio profondo, quindi però in questo caso io dico che avrei magari preferito che mio padre, se fosse stato un omosessuale, mi avesse portato in casa sua e mi avesse adottato anche il suo compagno. No, non credo che sia giusto per un bambino avere due mamme o due papà, tutto qua. È una cosa innaturale. Tanti sofismi con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questo disegno di legge, tutto con la gente lì della lingua biforcuta che fa le trasmissioni televisive, fa i dibattiti, scrive sui giornali, lingue biforcute. Secondo me alla fine poi c'ha ragione padre Livio Fanzaga, che la chiude con un editoriale secco: è il diavolo che si è impossessato di giornali, media, mezzi di comunicazione, TV. Sono lingue biforcute, forse anche noi, non lo so, io vi giuro, io vorrei intervistare padre Livio Fanzaga, cioè io no, non è che lo vorrei intervistare, proprio lo vorrei, io vorrei fare una trasmissione con padre Livio Fanzaga, lo dico qua pubblicamente, padre Livio, vorrei fare umilmente una trasmissione con lei, lo so che non mi reputerà all'altezza certamente, però ho fatto 3 anni ai Salesiani, questo potrebbe essere un biglietto da visita che mi fa giocare qualche carta, non lo so, ma sarebbe straordinario, cioè lo ascolterei proprio il diavolo. Quando dice le lingue biforcute, proprio, sai, ti immagini, io leggevo, non so se voi leggevate Braccio di Ferro, c'era Geppo, e c'era Satana, anzi come chiama mia figlia che ha trovato un vecchio Geppo, Satana. C'è Satana, papà, c'è, chi è Satana? Ah, Satana. E c'era anche il serpente con la lingua, col cappello e la lingua biforcuta. Ecco, io mi immagino proprio quel serpentino lì con la lingua biforcuta. Sofismi con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questo disegno di legge. Senti qui. Tutto con la gente lì della lingua biforcuta che fa le trasmissioni televisive, fa i dibattiti, scrive sui giornali. Lingue biforcute. Lingue biforcute. E io immagino quel serpentino lì nel in Geppo. Era fantastico il Geppo. Allora, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. 3-2. Vabbè. Balotelli contro Vannucchi. Per finire la favola. Spiazzato Vannucchi. Per finire la favola bisogna attendere ancora un po', perché abbiamo preso un palo. Abbiamo preso, c'era la porta vuota, abbiamo centrato la testa di uno a porta vuota. Poi Balotelli davanti al portiere aveva l'atteggiamento di quello appena reduce da una pericena. Dice vabbè, ho sbagliato un gol. So, abbiamo sbagliato 4-5 gol di fronte all'Alessandria e quindi forza Grigi, ma la vostra favola finirà tra poco, come è giusto che sia, siete grandi, basta credere alle favole, so, crescete un po'. Guardo il Milan alla TV. Allora, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè che è tornato in regia, ci sono due lingue, son certo biforcutissime, biforcuterrime oggi. Intanto la nostra, la radio di la lingua è pure rossa, con più di lei che il diavolo, voglio dire. Buongiorno. Cioè proprio rossa come il diavolo. Quel non solo vivevo a via del Colle della Strega, no! Da piccola, son dolori. Streghetta. Sì. Ecco. E hai un gatto nero? No, non nero. No, ne ho avuti tanti. Caterina, giusto? Caterina. Che, buongiorno, mi amo a tutti. Che come al solito può fare i suoi editoriali, qui siamo... Anzi, ricordati sempre che se non fai editoriali, non darle da mangiare, magari strizzale un orecchio. E... No, poverina, è bella, una palletta di seno. Ma sempre con amore, così fa miau e dice qualcosa in diretta. No? Ci proviamo anche oggi. Dai, lo sai, fai la TV, bisogna un po' fare un po' di, come dire, è un po' finzione anche, fai crea un caso, no? Pungolala. Esatto, pungolala con una forchetta, sulla coda. No, va bene, sto esagerando. Allora, mi dicono che era Salvatore, il serpente tentatore, grazie a Daniele, il serpente di Geppo. Chiedo anche al direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno. Tu lo leggevi, Geppo? Sì, me la ricordo questa cosa. Te lo ricordi il serpente con la lingua biforcuta? Tentatore, sì. Mi immagino questo. Tu secondo me sei un po' biforcuto. Satana sei tu. Sì. Santana. Anche un po'. Sì, effettivamente dobbiamo aprire il Parlamento perché, non lo so, sulle unioni civili ne parliamo tra poco. Sì, ne parliamo, tanto questa settimana vi voglio... Però prima voglio chiedervi del caso che è diventato internazionale per la visita del presidente Rouhani, che è venuto qui. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo impacchettato delle belle statue così che hanno centinaia di anni di storia, perché anche di più, perché insomma erano un po' inopportune. Allora, ieri noi avevamo Emma Bonino ospite, che ci ha detto una cosa semplice. Sentite sulla questione dei diritti umani, sentite Emma Bonino il rapporto con l'Iran. La mia opinione è che la promozione dei diritti umani è un processo e non è un evento. Quello che va evitata è l'autocensura, che prima del gelo, delle sanzioni, eccetera, c'era un dialogo strutturato tra Unione Europea e Iran proprio sui diritti umani, che io spero l'Europa riprenda e faccia valere. Ma quello che va evitato è l'autocensura. Capito, cioè quello che va evitato, dice Emma Bonino, è l'autocensura, cioè... Poi ha aggiunto, neanche loro si aspettano che noi ci autocensuriamo, cioè si aspettano che a fronte degli affari economici poniamo la questione dei diritti umani. E noi cosa facciamo, caro Luca Dini, cara Paola Saluzzi, caro direttore, cosa facciamo? Ci autocensuriamo, ci sono delle statue che non facevano male a nessuno. Io sono sicuro che al presidente iraniano non gliene avrebbe fregato nulla, di vedere due statue nude, ma noi siamo, no? O no? Ci siamo portati avanti. Sì, non brutta credo. Cosa, devo dire. Brutta cosa anche perché, come dice giustamente Emma Bonino, la questione dei diritti umani è un processo che nel caso dell'Iran va favorito e aiutato. Ricordiamoci che questo signore è presidente del paese dove a proposito di unioni civili, dove gli omosessuali vengono impiccati. Esatto. Quindi un pochino, insomma, tutto va bene, cioè è importante, cioè i rapporti sono importanti proprio per cercare di tirare fuori questo paese dal medioevo in cui è precipitato. Sì. Ma che, per carità, ecco. Poi non possiamo entrare lì e cambiare le loro leggi, ma no. Neanche fare queste cose, cioè no, voglio dire, non so, tu Paola che ne pensi? Sì, tu queste Sì, no, comprendo perfettamente, poi figuriamoci, sposo in pieno le parole di Emma Bonino, è successo, forse si è stati più realisti del re, non so a che livello si siano parlati, come posso dire, diplomazie interne o portavoce o quant'altro, perché poi generalmente queste cose si fanno superando gli stessi pensieri di chi forse verrà, anzi forse gli stessi pensieri di chi viene in visita. Non credo che sia stata una cosa di gravità nazionale, internazionale, insomma, è successo. Ma no, ma è chiaro, ma cioè, però ci sinceramente, pare che insomma hanno chiamato anche la BBC, la CNN, un po' stupiti, sì. Tutti un po' stupiti, perché guardate, il migliore è Paolo Branca. Paolo Branca è un grande islamista, uno dei migliori che abbiamo, anche se viene poco intervistato. Oggi intervistato dal Giorno dice: ma questa cosa fa ridere, cioè siamo è un'Italia da caricatura quando fa queste cose, proprio perché non ce lo chiedono neanche loro. Sì, qualcuno avrà detto: guardate, il presidente iraniano non vorrebbe... Scusatemi, questo però è da vedere, se non è stato chiesto da nessuno. No, no, no, ma sarà arrivata la richiesta, ci sarà, se, c'è sempre... No, no, no. E copra l'estate. No, è arrivata la richiesta, ma c'è sicuramente un funzionario zelante della delegazione iraniana che avrà detto questa cosa. E gli si dice, guardi, ma non... ma lasciamo stare, no, grazie. Non si può. Non si può, non credo che 17 miliardi di commesse verranno messe in crisi. Perché c'è una statua che è lì e non ha fatto niente e fa vedere, no, il seno. Dopodiché Michelangelo Buonarroti subì di peggio, perché gli coprirono i nudi del giudizio universale, quindi insomma voglio dire, la storia ha vissuto situazioni ancora peggiori, perché sono successe anche queste cose. Tiriamo avanti, va, ecco, cerchiamo di lavorare sui diritti umani, sul chiedere che vengano, infatti, su cose più importanti, invece delle statue, sentite, però Crozza, le statue anche Crozza hanno colpito. Oggi è arrivato il presidente dell'Iran, che proprio incarna il XXI secolo, lo rappresenta così tanto che oggi ci ha fatto coprire con degli scatoloni bianchi delle statue romane di 2000 anni fa, che sono copie di statue greche di 2600 anni fa, perché rappresentavano dei corpi nudi. Cioè praticamente la Venere Capitolina ce l'ha fatta diventare una scarpiera dell'Ikea. Quindi ricapitoliamo un attimo. Oggi un signore con un asciugamano in testa ci ha fatto coprire delle statue di 2000 anni fa perché si sentiva offeso da due zizze di marmo di 2600 anni fa. Cioè, questo forse l'asciugamano in testa è un po' più irriverente, se volete, no? Del presidente Juan Nicola, l'uomo con un asciugamano in testa. Vabbè, questa è Crozza. Cari iraniani, non rappresenta l'Italia. Care autorità italiane, è un libero comico in libero stato, no? Luca, metto le mani avanti perché magari dicono poi... Anche un po' lingua biforcuta. E anche poi ha la lingua biforcuta, sicuramente. È un rappresentante del diavolo. Oh, ecco, e la chiudiamo così. Oh, a proposito di lingue biforcute, sentiamo Crozza sempre sulle unioni civili, così mi dite il vostro pronostico. Io chiedo il pronostico a tutti qui. Amici e amiche omosessuali. Ma siete sicuri, proprio sicuri, sicuri di volervi sposare? Cioè, con le unioni civili, guardate che poi arrivano anche le suocere civili, no. I parenti rompicoglioni civili, arrivano anche i non mi porti mai da nessuna parte civili, e allora torno da mia madre civili. Vabbè. Questo è un gran classico, giustamente. Cara Paola, le cene di Natale. Sì, esatto, le cene di Natale civili. Cara Paola, il diavolo veste Paola. Questo il diavolo veste Paola e continua. Non è male. Anche oggi, e nonostante oggi ci dedicheremo ad altro, inteso come oggi parleremo 27 gennaio, giornata della memoria, è vero. Che parliamo di un mondo civile, dell'oscenità che venne scoperta più di 70 anni fa. Continuerò a essere lingua biforcuta, bisogna parlarne di tutto questo, si arriverà alla fine, ma non è che quando si arriverà a votare e a decidere la storia sarà finita lì. Continuerà anche dopo, nell'uno e nell'altro caso, insomma, comunque vada, continuerà. In ogni caso, il diavolo veste Paola era un nostro ascoltatore, che adesso insieme. Saluto e ringrazio. Salutiamo anche Marco, il nostro fornaio da Ravarino. Non so dove. Tu sai dove è Ravarino? Sapete dove è Ravarino? Lo sapevo. No, come lo sapevo? Ma non è un'interrogazione, ma stai tranquilla. No, sì, aspetta, Google, subito. Esatto, aspetta, attenzione, attenzione. Lo facciamo in tempo anch'io. Ravarino. Scusa, perché... Luca, se tu lo sai, lo sai. Comune di Ravarino, Modena. Ho vinto. Ravaren, in dialetto... In dialetto modenese. C'è un grado adesso. Oh, un bel fornaio. Cosa ci potrai portare da Ravarino, caro fornaio? Facci sapere. Che cosa? Come no. Si chiamano lì? Tigelle? Non mi ricordo. Ah, beh, la tigella. Sì, sì, certo, ci porta a portare una tigella. Allora, il pronostico. A quest'ora del mattino, ottimo. Va benissimo, io sono sveglio da 2 ore ormai. Il pronostico. Allora, pare che Renzi adesso dica ha paura che il Movimento 5 Stelle ne approfitti per tirar via il voto, eccetera. Però, il pronostico sulle unioni civili, caro Luca, passeranno con un compromesso o non passeranno? Che dici? Passeranno. Io voglio sperare. Questa è la speranza, però. Poi... Secondo me passeranno. Secondo te passeranno. Questa, alla fine, è il pronostico di Luca Dini. Secco. Tu, Paola, che dici? Passeranno facendo molta strada in salita. Quindi è sulla strada in salita che ci vogliamo concentrare. Insomma, non, fino all'ultimo minuto ci saranno polemiche di tutti i tipi, poi vediamo cosa accade. Siete un po' due servi del diavolo, anche voi. Ma adesso vedo anche un nostro ascoltatore che ci scrive: perché tutta questa ironia su Padre Livio? Mi pare fuori luogo. Ma che ironia? Intanto, ma io vorrei veramente. Cioè, io vorrei veramente intervistarlo. A parte che intervistarlo è impossibile. Cioè non, si può parlare solo via mail a Padre Livio Fanzaga. Ma è proprio. Non c'è ironia, veramente. Ma quando anche l'ironia è un, insomma, nel senso, non uccide nessuno, è un discutere su. Ma poi si può, non è ironia, è così, insomma, mi sembra un po' una posizione un po' dura il diavolo, però Luca, tu che dici? Si può fare? Senza fare, purtroppo nelle mie parole non c'è nessuna ironia, quando sento dire contro natura, vorrei ricordare che l'omosessualità è una cosa naturale, non è una scelta. Invece il voto di castità è contro natura, lo dico senza senza nessuna ironia né cattiveria, però voglio dire è una scelta contro natura, perché la natura, la sessualità fa parte della natura. Sì, su questo. Quindi è vero, cioè, è più naturale procreare e fare sesso che negarsi. Beh, siamo fatti per quello. Ecco, non solo per procreare, anche per fare sesso, se no non insomma saremmo stati fatti in un altro modo. Caro padre Livio, poi le do il cellulare di Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, così insomma lo riprendiamo un attimo nel caso della prossima trasmissione. Padre Livio, guarda che poi ascolta, poi dopo fa le reprimende. No, ma io non ce l'ho con lui, dico solo che è sbagliato dire contro natura, non si può dire. Fai notare. Ah sì, quello ce l'ha detto anche ieri Maroni, era Roberto Maroni, una versione innaturale. C'è ancora questa cosa, sono innaturale, padre, madre e la famiglia naturale. Tutto il resto è contro natura, innaturale. A me spaventano queste espressioni. Comunque il traffico, e poi rientriamo. Oh Milan, ma che razza di traffico hai mandato? Senta, prima che chiudano le frontiere, questo Papa, non potremmo spedirlo un po' ad Avignone? Tanto poi se lo rimanderanno indietro. Te sei proprio un pistola, Milan. Forza Inter! E Falcone alla Cirinà e Falcone alla Boldrini. A Milan, io voglio unirmi con un animale! E dopo vediamo se clonare Gasparri! Ciao, Milan! Dice il saggio, vai con Alessandro Milan e impari a cazzeggiare. Il Family Day interpretato dalla Mussolini e il marito. Vabbè, questi sono libere interpretazioni dei nostri ascoltatori. La nostra segreteria telefonica, siamo con Paola Saluzzi. Sky TG24 pomeriggio, oggi alle 15 ne parlerai ovviamente, immagino, tornerai. Certo. Non si scampa da quello, eh? Unioni civili. È l'argomento del giorno. Eh certo. E invece, a proposito di immigrati, mi ha molto colpito, sapete cosa hanno fatto in Danimarca? Oh, la Danimarca è un paese democratico, eh? Qualcuno dice che vince nelle classifiche come il paese più felice del mondo quando fanno queste classifiche. In Danimarca è legge, diventata legge, il fatto che requisiscano i beni dei profughi. Arrivano i profughi, requisiscono i beni. Il principio è questo: devono cominciare a dare qualcosa in cambio di quello che ricevono. Ovviamente l'accusa è: ma no, ma questo è un provvedimento, c'è chi tira in ballo sempre a sproposito il nazismo. Il nazismo viene sempre citato così, come se fosse una cosa leggera, poi proprio oggi. Paola, che ne pensi? Perché fa molto discutere, da che una democrazia arrivi a questo. Ma, insomma, ieri c'è stato un piccolo sussulto quando la notizia è arrivata. Dopodiché la domanda però è un'altra: cosa ricevono? Ricevono... bisogna capire cosa ricevono, se ricevono un'abitazione, ricevono una possibilità di introduzione nel mondo del lavoro. Ricevono ospitalità, all'inizio vengono aiutati con sussidi, immagino se hanno diritto poi e sono profughi avranno poi un diritto anche a crearsi una vita dignitosa, no? No? Allora, se il punto di partenza è dammi i soldi se vuoi stare qui, è mostruoso. Detto proprio papale, è mostruoso ovviamente. Bisogna poi andare a vedere da vicino che cosa sia la controfferta. Che cosa sia la controfferta? Credo che la controfferta chiedere di fare salvadanaio in questa maniera è un po' anomalo. Non ti piace? Voglio essere diplomatica. No, è chiaro, non ti piace per niente. E credo che l'offerta, per parlare brutalmente in termini economici, sia: ti diamo l'opportunità di una nuova vita, esaminiamo la tua domanda, se hai diritto a essere profugo. Però tu dici: non dovrebbe esserci un'offerta in cambio a questo. Mi restituisci, poi mi ridai. Oppure, ripeto, me li ridai in questi termini. Sì, ma poi voglio immaginare quanti. Vuol dire prendere e buttarti per strada alla fine. Prenderti e lasciarti a zonzo, ma vuol dire fare integrarti. Certo, io sappiamo la notizia di una ragazza, guarda caso era una donna di 22 anni, che si è presa un po' di coltellate nella schiena. È stata uccisa in Svezia. 15 anni, ragazzino, da un mini criminale di 15 anni che ha ritenuto bene di accoltellarla perché era quella che faceva il turno di notte, c'è stato un diverbio e l'ha ammazzata. Insomma, ecco. E lei era la responsabile del centro profughi, certo. E lui era un quindicenne. Questo succede in Svezia. Pensa se fosse successo in Italia, allora, creerà polemica anche in Svezia, per carità. Ribadisco, capire che cosa tu mi dia in cambio, perché se tu in cambio mi dai una collocazione all'interno di questa società e mi chiedi prima dei soldi, non ti piace, non ti piace. È orribile, però parliamone. No. Luca, tu che dici? Perché... Ma io sospetto che ricevano più di quello che ricevono qui, credo. Quindi... Anche lì, prima di giudicare, vorrei vedere la situazione, perché ci sono tante cose brutte quando vedo qua alcune persone lasciate a zonza, abbandonate a se stesse, no, non mi sembra che sia che ricevano molto, che ci sia molta più umanità, ecco. Sì, però insomma fa discutere. Io non me la sento di dare patenti. Questo, capito? Cioè, bisognerebbe studiare bene, esatto. Bisognerebbe capire bene cosa. Specie perché arriva da gente che molto spesso viene tacciata, come dire, di avere idee un po' troppo gettate da una parte, insomma. Sì. Di avere comportamenti politicamente parlando un po' esageratamente duri. Allora, io però ho qua il numero di Vanity Fair, finalmente dopo una pausa di 6 mesi avete deciso di tornare anche in edicola. Lo so, sono un po', mi piace un po' stuzzicare e provocare. C'è una Vittoria Puccini che andiamo alla seconda di copertina, insomma, signori. In prima, vuoi fare un commento sulla tua copertina, direttore? No, voglio fare un commento su quello che c'è dentro, su una giornata particolare di Ettore Scola, su quello che veniva fatto agli omosessuali durante il fascismo e sugli omosessuali, visto che è il giorno della memoria, che sono morti nei campi di sterminio. Ah, ecco, questo... A proposito di natura e contro natura. E questo mi sembra... Aspetta, direttore, con un triangolo rosa. Certo, come no. Su quella che dobbiamo considerare forse una casacca, per riconoscerli prima e potergli fare prima quello che si volesse fare. È tutto vero e purtroppo è successo, e non tantissimi anni fa, non pensate che sia successo tantissimi anni fa. Ci sono anche bei servizi, ce n'è uno sui disastri ambientali in Brasile, ma soprattutto ce n'è uno. Caro Luca, io ti devo ringraziare. Hai intervistato uno dei miei miti assoluti, la Franca. Come la chiamo io? La Franca. Franca Leosini. Io mando, so che a volte ci ascolta, magari non la quest'ora. Io sono un Leosiner dalla prima ora, ma tu stai scherzando? Io e mia moglie all'intervista di Rudy Ghede avevamo i bambini a letto alle 9:15 rigorosamente, tutto spento, staccato, citofoni eccetera, perché dovevamo vedere Franca Leosini. Io sono un Leosiner della prima ora. Sono contento di averti fatto felice. Ecco, no, ma adesso al di là di tutto, veramente una maestra verso cui davanti a cui mi inchino. E quindi sono contento di leggere questa intervista. Sono umana anch'io. Questo è il titolo dell'intervista a Franca Leosini su Vanity Fair. Va bene, allora, tu alle 15, cara Paola, sei sempre in campo. Noi siamo pronti con Schengen che vacilla. Che vacilla Schengen, aiuto Europa. Sì. E saremo ovviamente anche sul tema Unione Civile. Insomma, saremo su tutto, perché l'approfondimento fa questo. E poi ci tengo a dire... Si parla in una chiave non soltanto di doverosa memoria, più che doverosa, della giornata della memoria, tutto ciò che è stato intorno della giornata della memoria, ma come non ripeterla? Perché si corrono dei rischi, ci sono dei rischi di gradi di parentela molto stretti che rischiamo, che vogliamo non vedere di questi tempi e che invece vanno guardati con attenzione. E allora alle 15, mi raccomando, il selfie, non fate i burloni, soprattutto tu Luca Dini, che non ci mandi più la foto. Paola, io non te l'ho chiesta, magari ce l'hai già mandata, non lo so eccetera, però se ci... Cosa? Se ci... Questi sono i miei baci sul gatto. Sono i baci sul gatto. No, niente, oggi non vuole miagolare, va bene. Insomma, però la foto ci dovreste mandare su Twitter, sempre se volete, un particolare della vostra casa. Grazie, è molto gradito. Intanto alla prossima. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? A Radio 24 lo speciale scuola, quale scelta per i nostri figli? I consigli di insegnanti, presidi e pedagogisti per capire come orientarsi fra licei e tecnici e come valutare le scuole più vicine a casa vostra. Sono Maria Piera Ceci, vi aspetto giovedì 28 gennaio dalle 21. Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Alle 7:17 minuti, cari amici miei debosciati d'Italia, come state? Come state debosciati? Se siete appena svegliati, noi siamo qui dalle 6:30. Sapete che ci piace trattarvi così, con grande affetto, amore, con grande trasporto nei vostri confronti. Allora, i giornali che cosa ci offrono oggi? Andiamo subito a sfogliarli. Mercoledì 27 gennaio, i titoli: le banche e l'accordo tra l'Italia e l'Unione Europea sulla bad bank, sui crediti deteriorati. Questo è il titolo di apertura per il Sole 24 Ore ed altri quotidiani. Ecco il Sole: banche, intesa con l'Unione Europea sui crediti deteriorati. Mentre Repubblica: crisi bancarie, c'è accordo tra UE e Italia. Per il Messaggero: Italia, Unione Europea, accordo sulle banche. La Stampa: banche, boccata d'ossigeno, c'è l'accordo con l'Europa. Anche il Giorno: banche, accordo sofferto. Poi la vicenda delle statue coperte per la visita del presidente iraniano è l'apertura del Corriere della Sera. Statue coperte, caso mondiale, misura per la visita di Rouhani a Roma. Così anche Libero, Renzi mette il burka alle statue. Il Giornale invece, buonismo finito, i profughi pagano. È la notizia che proviene dalla Danimarca. In Danimarca hanno reso legge la confisca dei beni dei profughi quando arrivano nel loro paese. Devono mettere a disposizione il loro patrimonio per pagarsi la permanenza. Unità, unioni civili, ci siamo. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Fatto Quotidiano, Verdini salva Renzi e Boschi ed entra nella maggioranza. Avvenire, il titolo di apertura di Avvenire, andiamo in pace. Rouhani incontra il Papa e chiede di pregare per lui. Ieri il presidente iraniano anche in visita in Vaticano. Allora, però, mi hanno incuriosito molte notiziole qua e là che vi voglio sottoporre per iniziare ad approfondire qualche lettura. A cominciare da quello che succede in una scuola di Torino. Attenzione, Paolo Griseri lo racconta per Repubblica, pagina 22. Sentite che succede al convitto Umberto I, dove la preside Giulia Guglielmini non ha fatto altro che applicare la legge. Una legge che però non è applicata praticamente in nessuna scuola, ma c'è una legge, io non lo sapevo. E cosa prevede questa legge? Prevede l'alcol test per i professori, che ovviamente si ribelle. Peter Mescavè ride come se gli avessi detto, non so, come una battuta di Benigni dei bei tempi. Non ridere, tu non potresti fare il professore, dici. Allora, l'alcol test per i prof che dicono rivolta a Torino, così ci umiliate. Caro professore, prego soffi qui. Trattare l'austero docente di matematica come un qualsiasi scapestrato del sabato notte può essere una bella soddisfazione per gli allievi, ma al convitto nazionale Umberto I di Torino gli insegnanti non l'hanno presa bene. Siamo umiliati, protestano. E la preside ribatte, è la legge. E dalla prossima settimana, a piccoli gruppi estratti a sorte, tutti andranno all'alcol test. La prova del palloncino ai docenti delle scuole italiane teoricamente è un obbligo dal 2008, quando il decreto legislativo 81 ha imposto ai medici di azienda di sottoporre ad alcol test tutti i dipendenti di particolari categorie a rischio. E dunque accanto a tassisti, personale marittimo, piloti d'aeromobile, responsabili della produzione di esplosivi, tecnici di manutenzione di impianti nucleari, compare al comma 6 l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Ovviamente, scrive Repubblica, gran parte delle scuole italiane ha bellamente ignorato il provvedimento. Non qui a Torino, dice la preside, che dice non posso scegliere, c'è una norma nazionale, una delibera regionale che impone di rispettarla. L'alcol test ai prof. A proposito di professori, no, è un po' diversa. A proposito di mondo universitario, Libero oggi in prima pagina pubblica una notizia che mi ha anche questo incuriosito. Pagati dall'università per applaudire la Boldrini. La notizia è questa. Laura Boldrini, presidente della Camera, ha presentato il suo libro all'Ateneo di Pisa, all'Università di Pisa. E cosa è successo? È che in attesa dell'arrivo di Laura Boldrini, il rettore ha scritto questa circolare: sono lieto di invitarvi all'incontro con la Presidente della Camera, onorevole Laura Boldrini, 22 gennaio 15:30, presenteremo l'ultimo libro, e fin qui nulla di male. Ma poi, scrive Chiara Giannini, a pagina 13 di Libero, è seguita una seconda mail nella quale c'era scritto questo: in relazione all'invito del rettore all'incontro con la Presidente della Camera, onorevole Laura Boldrini, si fa presente che per coloro che hanno il rientro pomeridiano di venerdì, l'eventuale partecipazione all'incontro sarà considerata come orario di servizio, previa comunicazione al responsabile della struttura. Insomma, scrive Libero, chi avesse voluto avrebbe potuto disertare il lavoro senza dover rinunciare alla retribuzione per assistere alla presentazione del libro della Boldrini, pagati dall'università per applaudire la Boldrini. Questo è il titolo di pagina 13 di Libero, questa polemica che riguarda il mondo della scuola. Ma sentite anche questa che mi ha molto incuriosito. Beh, viene dalla prima della stampa, da un piccolo comune in provincia di Vercelli. Il comune si chiama San Germano. Samuel Moretti e Valentina Roberto lo raccontano in prima pagina della stampa. Niente parco giochi ai figli degli evasori fiscali. Succede che il sindaco Michela Rosetta, di questo paese di 1700 anime, San Germano, ha deciso giù dall'altalena, dal parco comunale, i figli di chi non paga le tasse. Mamma mia, come attendo Oscar Giannino più tardi, come aspetto Oscar Giannino su questa notizia. Chissà che il loro pianto non convinca mamma e papà a metter mano al portafoglio. È tutto scritto nero su bianco in una delibera avallata dalla sindaca di San Germano, 1700 anime, Michela Rosetta, che dice: le imposte servono a finanziare i servizi e chi non le paga non ne ha diritto, così stoppa la mensa scolastica. Questo è un gran classico anche in altri paesi. Niente più sacchetti gratis per i rifiuti. Addio accesso al teatro comunale, cancello chiuso agli impianti sportivi e cancello chiuso al parco giochi. Pagano pure i figli che non possono andare sulle giostre. Così i genitori vengono rieducati. Certo, la stampa dice: in un paesino ci si conosce, a Palazzo Civico sanno bene chi paga e chi no. Dicono: abbiamo mediato con molte famiglie in difficoltà dilazionando gli arretrati, ma chi non è in un programma di rientro rinuncerà ai servizi finché non si accorderà con l'amministrazione. E dunque papà e mamma evadono le imposte, il sindaco vieta il parco giochi ai figli. Questo succede a San Germano in provincia di Vercelli, Italia, lo racconta la stampa in prima pagina. Oh, veniamo a cose, visto che si è parlato tanto di furbetti del cartellino, sapete che c'è questa polemica per il Capodanno in Rai anticipato. Perché c'è questa polemica? Perché oggi c'è una decisione nei confronti del dirigente che ha deciso di anticipare il Capodanno della Rai, il capostruttura, colui che era responsabile, Antonio Azzalini, capostruttura riconosciuto responsabile da un'inchiesta interna di aver volutamente anticipato il countdown di Capodanno per battere la concorrenza Mediaset. Ebbene, oggi il Messaggero racconta che il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, è vicino a una decisione che sarebbe clamorosa, abbastanza importante: il licenziamento in tronco, oggi stesso. Capodanno RAI, big verso il licenziamento, pagina 11 del Messaggero. Accertate le responsabilità di Azzalini sulla mezzanotte anticipata, Campo Dall'Orto pronto già oggi, racconta Marco Castoro, a comminare la sanzione più dura. Direi che è una notizia che può sembrare una notizia minore, ma che farà certamente discutere. Questa invece è la notizia che mi fa più incazzare della giornata. Avete tazzine del caffè bollente, cappucci, appoggiateli un attimo. Siete in treno, come sempre, posizione d'atterraggio di emergenza come se foste in aereo, e mani sul volante per chi è alla guida. In Italia ci sono 8.000 modi per definire una veranda. 8.000 modi. Voi dite: cos'è una veranda? 8.000 comuni, 8.000 regolamenti edilizi diversi. Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 23, camere, balconi, rivestimenti, in ogni comune d'Italia parametri diversi e parametri assurdi. Ancora è sconosciuto, scrive Rizzo, il virus che ha indotto gli estensori del regolamento edilizio del comune di Firenze a scrivere l'articolo 42. Cosa prevede l'articolo 42? Beh, prevede questo: non costituiscono pareti finestrate le pareti prive di aperture. Questo è l'articolo 42. Finirebbe nel sito Dumblows www.Trump.com, che contiene il florilegio delle leggi più assurde e esilaranti degli Stati Uniti e nel mondo, magari accanto alla legge che in Arkansas divieta di passeggiare con una mucca nella strada principale di Little Rock dopo le 13 di domenica. Ecco, Sergio Rizzo la prende così, con spirito, per raccontare però che 8.000 comuni hanno 8.000 regolamenti edilizi diversi. E dal confronto tra quello che c'è dentro ognuno di essi a lasciare basiti, come si giustifica che la dimensione della camera matrimoniale, per esempio, sia di 14 metri quadri a Firenze e 12 a Milano, mentre a Reggio Calabria i locali adibiti ad abitazione a mente del DM57-1975 devono avere una cubatura minima di metri quadri 24,30? Dipende forse dal grado diverso di intimità tra gli sposi fiorentini rispetto a quelli milanesi o reggini? E la cucina, allora, ne vogliamo parlare? Per quale ragione a Milano può essere anche di 5 metri quadrati, mentre a Firenze ne sono richiesti 9? Perché i parapetti dei balconi a Milano devono avere un'altezza di 1,10 m, mentre a Roma è sufficiente 1 m? È una questione antropologica. Al confronto dei romani, milanesi sono vatussi, non c'è dubbio. Se poi un milanese decide di prendere casa a Roma, beh, insomma. La spiegazione deve essere la medesima, ovvio, nel caso delle prescrizioni relative al rivestimento impermeabile dei bagni. A Milano deve avere un'altezza minima da terra di 1,80 m, a Napoli basta 1,5 m. I napoletani saranno anche più bassi, ma non per questo hanno bisogno di meno spazio, anzi. Un alloggio abitabile a Milano e a Firenze non deve avere una superficie inferiore a 28 metri quadri, a Napoli almeno 45. E così via, 8.000 comuni, 8.000 modi per definire una veranda. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che... State ascoltando un programma offerto da... ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Ciao Alessandro Milano. Un cognome da 7 coppe dei campioni, altro che Serie B. Oh, e diciamolo, e altro che Serie C, mi verrebbe da dire, visto la partita di ieri. Forza Grigi, forza Grigi. Ci fanno notare che forse le cucine a Firenze devono essere più grandi perché ci devono entrare le bistecche alla Fiorentina, che può essere anche una lettura. Ovviamente l'amaro commento di un nostro ascoltatore sulla burocrazia italiana, mentre invece che amarezza e che amaro commento deve provenire dopo quello che abbiamo visto ieri. Può sembrare una cosa per alcuni secondaria il fatto che arriva il presidente iraniano e abbiamo coperto alcune statue che sono l'orgoglio della scultura italiana da esibire per tutti, e invece le statue come la Venere Capitolina, statue che portavano alla Sala Esedra ieri, e sono state parzialmente occultate perché, insomma, queste nudità non dovevano essere evidentemente mostrate al presidente iraniano, e questo ha fatto nascere uno scandalo e un caso mondiale. Questo è il titolo del Corriere della Sera, caso mondiale, il titolo di prima pagina. Il centralino di Palazzo Chigi, fa sapere Marco Galluzzo a pagina 2 del Corriere della Sera, ha ricevuto più telefonate internazionali del solito, giornalisti soprattutto, BBC, CNN, tutti volevano chiedere informazioni sulla decisione di oscurare le statue romane dei musei capitolini. Allora, la ricostruzione del Corriere è questa: il cerimoniale di Palazzo Chigi, certamente per un eccesso di zelo, ha accolto la richiesta dell'ufficio diplomatico e della delegazione iraniana. Qualcuno ha detto, ma insomma, quelle nudità. E pare che Renzi si sia anche arrabbiato, abbia chiesto spiegazioni a incidente avvenuto, a dire, ma com'è possibile? Comunque, pagina 2-3 del Corriere è dedicata a questo. Pagina 6 e 7 dedicate da Repubblica alla censura del cerimoniale, i corpi di marmo senza veli diventano un caso internazionale. C'è un'intervista, guardate, all'islamista, secondo me meno ascoltato, ma più uno dei più intelligenti che abbiamo in Italia, è il professor Paolo Branca, ospitato in un'intervista dal Giorno, Francesco Gerardi. Paolo Branca insegna lingua e letteratura araba alla Cattolica di Milano, è responsabile per la diocesi di Milano dei rapporti con l'Islam, e lui dice: a me pare proprio la solita polemica all'italiana. Guardiamo al dito e perdiamo di vista la luna. Rouhani sta sdoganando l'Iran e noi ci fissiamo su questi problemi. Una battaglia di retroguardia. Tra l'altro Rouhani non si sarebbe offeso a vederle. Conosco troppo bene il suo spessore culturale per pensare che una sciocchezza del genere potesse turbarlo. Chi ha coperto le statue lo ha fatto per difendere Rouhani dagli oppositori reazionari in Iran. Sa che ci sono miniature persiane con scene di amore omosessuale? Insomma, non è gente appena scesa dagli alberi, dice il professor Branca, intervistato da Francesco Gerardi. E poi insiste: è un problema nostro. Se due o tre pazzi sobillati da laicisti tolgono i presepi dalle scuole, non è colpa dell'Islam, le pare? Abbiamo una percezione del mondo musulmano caricaturale, ci sfugge la realtà. La realtà è che i dati ufficiali della diocesi di Milano ci dicono che il 25% dei frequentatori degli oratori sono bambini islamici che non hanno proprio alcun problema col crocifisso e i simboli religiosi cristiani. Le scuole cattoliche in Medio Oriente e in Africa sono piene di studenti musulmani. A Tangeri, in Marocco, c'è un cimitero per cani e lei sa quanto sia tradizionalmente disprezzato il cane nell'Islam. Qualche anno fa ho anche scritto un libro sull'ironia dei musulmani verso la religione, ma in Italia non se n'è accorto nessuno. Insomma, il professor Paolo Branca dice: fa ridere questa caricatura dell'Italia, dell'italietta che occulta le statue. E oggi a questo tema è dedicato anche il buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa. Sottomissione è il titolo. I geni del cerimoniale che hanno inscatolato quattro statue, peraltro velate, del Museo Capitolino, nel timore che vedendole il presidente iraniano Rouhani avesse uno sgomento ormonale e stracciasse i contratti con le nostre aziende, sono degni eredi di un certo modo di essere italiani, senza dignità. Quella vocazione a trattare l'ospite come se fosse un padrone, a fare i tedeschi coi tedeschi, gli iraniani con gli iraniani, gli eschimesi con gli eschimesi, a chiamare rispetto la smania tipica dei servi di compiacere chi li spaventa e si accingono a fregare. Su questa tradizione millenaria, figlia di mille invasioni e battaglie perdute anche con la propria coscienza, si innesta il tema modernissimo del comportamento asimmetrico con gli stati musulmani. Se un'italiana va in Iran, si copre la testa. Se un iraniano viene in Italia, gli copriamo le statue. In un modo o nell'altro, a coprirci siamo sempre noi. E la suscettibilità da non urtare è sempre la loro. Ma se la presenza di donne sigillate da capo a piedi su un vialone di Baghdad urtasse la mia di suscettibilità, non credo che per rispetto nei miei confronti gli ayatollah consentirebbero loro di mettersi la minigonna. Sarei curioso di sapere come funziona la sensibilità corrente alternata del signor Rouhani. Le tette di marmo lo sconvolgono e i gay condannati a morte nel suo paese no? E di sentire cosa penserebbe mia nonna di questa ennesima arlecchinata italica. Quando ero bambino mi insegnò che il primo modo di rispettare gli altri è non mancare di rispetto a se stessi. Così Gramellini sulla Stampa. E poi c'è l'immigrazione in tutto questo. Oh, il Corriere racconta intanto che venerdì Renzi va dalla Merkel e fa delle anticipazioni Danilo Taino di che cosa la Merkel vorrà dire a Renzi. Non sarà un pranzo di gala, dice il Corriere, le tensioni ci sono e i rifugiati è uno dei temi che Frau Merkel vorrà capire nell'analizzare la situazione, mostrandosi preoccupata, anche i conti ovviamente, si parlerà del debito italiano, del gasdotto e anche sui rifugiati, con la cancelliera che sarà pressante, scrive il Corriere. Dirà a Renzi che i 3 miliardi promessi dall'Italia alla Turchia affinché trattenga il maggior numero possibile di profughi vanno finanziati, che Berlino sosterrà l'Italia nel controllare le frontiere, ma chiederà che gli hotspot nei quali registrare chi entra in Europa vengano fatti funzionare. A questo proposito, il Messaggero intervista Alfano, ministro dell'Interno, che dice: rimpatrio sarà caos, le quote sono state una delusione. Il ministro dell'Interno, intervistato da Cristiana Mangani sul Messaggero a pagina 3, dice: per ora il trattato di Schengen è salvo, ma il diritto di libera circolazione rimane fortemente sotto attacco. Dobbiamo stringere patti importanti con la Turchia per tentare di far diminuire il flusso dei profughi. E a proposito dei 3 miliardi che l'Italia ha promesso di dare alla Turchia proprio per frenare il flusso di profughi, Alfano dice: sì, i miliardi vanno dati, ma la nostra idea è che si tratta di prenderli dal bilancio comunitario, oppure qualora li debbano versare pro quota agli stati membri, è necessario che tali investimenti o spese rimangano fuori dal patto di stabilità. Il punto è questo: l'accordo con la Turchia è comunque una priorità. Così Alfano. A proposito di immigrati o di profughi, la notizia sicuramente più importante proviene da un paese che è una democrazia assoluta, la Danimarca, considerata, come scrivono molti giornali in tutte le classifiche, uno dei paesi più felici in cui vivere, che ha fatto una legge molto discussa. Il giornale la mette in prima pagina come titolo principale. Pensate, una notizia che arriva dalla Danimarca. E il titolo principale è questo: buonismo finito, i profughi pagano. La notizia è che è legge in Danimarca la confisca dei beni ai profughi. Il Parlamento ha approvato la riforma al diritto d'asilo con questo principio: chi arriva qui deve mettere a disposizione i propri beni, devono pagare almeno parte di ciò che riceveranno. I socialdemocratici votano insieme al governo di destra e xenofobi sequestrati oltre 1.300 euro per coprire le spese di accoglienza. Le proteste di chi dice si viola così la Convenzione sui diritti umani, è incredibile, cioè se uno ha diritto a essere profugo non deve pagarsi un diritto, la discussione c'è, ma la Danimarca lo ha fatto, piaccia o no. Ma è il momento di Mauro Meazza, attenzione caro Mauro, buongiorno. Buongiorno, ma mi fai precedere da questa notizia danese, un po' inquietante perché devo pagare qualcosa per, ma perché tu non lo so, ecco, mi sono rimasto anch'io abbastanza colpito leggendola, tra l'altro insomma anche su Sole 24 Ore di oggi. Senti, ti stai preparando a telefisco? Scusa, come no, domani decisamente argomento. Oh, ho bravissimo. Già la cravatta da parte. Molto bene, hai tenuto da parte anche le 2 pagine di ieri. Oggi sì. Ascolta religiosamente, sì. Cuore denari, perché si parlerà di temi fiscali. Ci sei tu? No, ci sono persone molto più preparate di me. E, tra l'altro, sul Sole 24 Ore di oggi, caro Alessandro, una notizia importante, perché è stato anticipato che saranno aboliti gli studi di settore per i professionisti. 800.000 professionisti, forse già dal 2016, non dovranno più compilare gli studi di settore, tutti i particolari. Nelle prime pagine del Sole 24 Ore, attenzione, perché magari tu vai subito religiosamente alle pagine di norme e tributi, invece ti puoi fermare già nelle primissime pagine per questa notizia. Hai già ricordato dell'intesa con la UE, tutti i dettagli però di questa intesa sulla pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi, e poi c'è una buona notizia perché Moody's, sai quelli che danno sì, le pagelle, certo, di rating, quelli lì. Ha alzato il rating su su un buon numero di banche italiane, sui depositi di queste banche italiane, cioè le ha giudicate più solide, più affidabili di quanto non facesse prima. Se vuoi saperne di più, pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi, caro Alessandro, Fabio Pavesi. Oh, vorresti pagare una tassa del 3% sul così? Reddito? Così, sono pronti via. No, del 3% però, in più o del 3%? No, sostenuto tutto compreso. Ah, tutto compreso. Beh. Però guarda, ci sta riuscendo Google in Gran Bretagna. L'ho letto proprio sulle pagine di finanza di oggi. Diciamo, fa parte di questi accordi con queste grandi multinazionali del web che effettivamente hanno delle aliquote tutte particolari. Insomma, spieghiamo bene tutti i dettagli in finanza, naturalmente. Ti voglio poi dire, se non hai ancora compreso cosa c'è nella riforma della pubblica amministrazione, sì, nota anche come riforma Madia, sappi che da oggi ti diamo anche un ebook, quindi puoi trovare tutte le spiegazioni sui contenuti anche sul sito del Sole 24 Ore in un ebook, così ti puoi preparare. Mi raccomando di arrivare bene, bene, bene a telefisco, perché hai visto che il fisco sta invadendo anche il mondo del calcio. Ah. Cioè, questa notiziuola, che trovi. trovi ben rappresentata anche sulle pagine del Sole 24 Ore, e lì c'è tutta una discussione sulle, come dire, impostazioni contabili e fiscali dei trasferimenti dei calciatori. Ma io ti rimando, guarda, oggi alle pagine del Sole 24 Ore, sì. Domani ti aspetto a Telefisco, vieni? Sì, certo. No, mi sembrava che tu fossi, perché guarda, sarà anche un Radio Day poi Telefisco, chiaro, no? Vai, chiaro, come sempre. Come ogni anno, da tradizione a Radio 24 qui. È proprio così. E no, anche perché ho visto che hai ripreso la tua trattativa con Mr. B. Che sì. Devi comprare il tuo 48%. Esatto. Forse dopo la rigorosa affermazione di ieri sera si sarà convinto. Ma si possono fare gli auguri a entrambe questa sera? Cioè? Sì, perché... Auguri a tutti. Per te è un po' come scegliere tra la tosse e il catarro, questo volevi dire? Questo con... No. Va bene, accettiamo gli auguri, ricambiamo anche da parte dei nostri rivali di stasera di Torino e naturalmente a questo punto, caro Alessandro, traffico. Alessandro Bilan, il Mister B dell'informazione. Sto Bilan. Vabbè, ma mandateci comunque le vostre siglette al 349-238-6666. Mi raccomando, è un WhatsApp anche, quindi in audio, belle, chiare, come succede da qualche giorno. Posso risparmiarvi per un giorno, dai, tutti gli articoli sull'Unione Civile, il dibattito? Facciamo un sondaggio veloce? Sì, per l'89% di ascoltatori ha detto sì e quindi ve li risparmio, tanto voglio dire, domani li troveremo più o meno uguali, però mi concentro in questi pochi minuti su altro. Per esempio, che succede a Parigi? A Parigi per la seconda volta in pochi mesi i tassisti hanno messo sotto sopra alcune zone di Parigi con proteste, intervento della polizia contro Uber. La questione è molto calda anche in Italia, lo sapete. E infatti, tra l'altro, alla manifestazione c'erano anche colleghi italiani, fa sapere la stampa. Vi segnalo l'articolo più interessante, quello di Massimo Russo, a pagina 5 della stampa. Dai trasporti alla casa al mare, la vita del futuro sarà uberizzata. Scrive Russo, non c'è solo Uber, è la nostra vita quotidiana che sta per essere uberizzata. Con una schizofrenia, le innovazioni di cui decretiamo il successo da consumatori sono le stesse contro le quali ci scagliamo quando colpiscono la nostra corporazione. I taxi sono l'esempio più clamoroso, sia per le maniere plateali della categoria, sia per la rapidità con la quale la tecnologia ha scardinato il modello economico dei conducenti. Anche se Uber dovesse sparire, ci sono già Via, BlaBlaCar, Lyft, pronti a prendere il posto. Mentre in Estremo Oriente, con alcune applicazioni, il costo della corsa si contratta all'asta. I fronti sono innumerevoli, dove c'è una transazione che è possibile disintermediare attraverso connessione a internet e i meccanismi di fiducia abilitati dalla rete, presto o tardi ciò accadrà, con lo sconforto dei disintermediati, ma con vantaggi ed efficienza per la collettività. Secondo alcune stime del MIT, la sola condivisione delle auto pubbliche è in grado di eliminare dalle strade di New York e delle grandi città europee 9 viaggi su 10 dei taxi. Nelle stesse ore in cui si protestava sulla tangenziale di Parigi, la capitale era colpita da un altro sciopero, quello dei controllori del traffico aereo, un'agitazione di fronte alla quale Ryanair, compagnia low cost, ha reagito con un ultimatum all'Unione Europea: stop a nuovi blocchi o via libera ad altri operatori. Hanno fatto una petizione online e hanno raggiunto migliaia di consensi in poche ore. Come non c'è sciopero che abbia impedito alla compagnia irlandese di diventare il primo vettore nel nostro paese, superando Alitalia, così non c'è regolamento anticoncorrenza nel settore medico in grado di vietare ai connazionali di curarsi all'estero. La difesa a oltranza dello status quo, scrive Russo, a volte si annida in regolamenti regionali, come avviene per la regione Lazio, che ha la chetichella per impedire il proliferare di servizi quali Airbnb, che consente la condivisione degli alloggi, ha previsto una norma che impone la chiusura per almeno 100 giorni l'anno ad affittacamere e case vacanze. Difficile meravigliarsi che l'Italia viaggi nei bassi fondi delle classifiche sulla concorrenza. In quella del World Economic Forum, ad esempio, risulta al 43esimo posto. Insomma, Massimo Russo dice non dico rassegnatevi, ma comunque è la vita che sarà su tutti i fronti, la salute, l'ospitalità, gli spostamenti, i trasporti, la finanza, uberizzata, piaccia o no alle categorie. E che dire, alle 54 chiudiamo, chiudiamo tra 10 secondi. E come... vabbè. E allora vi dico la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, il giornale, una pagina su che succede a Madonna. Ritardi, gaffe, litigi. Sarà mica un cuore troppo ribelle, Madonna? Ma chi se ne frega!